È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, sono le 7:15 minuti, è un momento storico. È un momento epocale, è un momento incredibile, è un momento da celebrare. Il Milan è tornato a vincere in Europa, signori! Sacchio dell'area di rigore. E Rodriguez che infatti va verso la porta! Non so se ha toccato qualcuno. Sarà forse una no. Cavalcata trionfale. Per il Milan. Senti qua, Mauro Meazza canta con noi l'inno del Milan. Fate tutto, no? Calci piazzati. Forza Mauro, dai. Grazie, grazie Alessandro. Dai, canta. Vorrei esimermi da questa cosa. Se posso. Senti che bello l'inno del Milan. Se posso invece ricordare la splendida prestazione dei ragazzi di Spalletti che hanno domato 2-0 il Bayern, caro mio. Ma come in che coppa? Era una partita che si svolgeva in Asia. Ma non dovevamo leggere i giornali. Sì. Signore, scherzavo, questa è l'ultima mia rassegna stampa qui a Radio 24 perché rimango a Radio 24. Poi già questa è una prima notizia, però non lo, sta sui giornali, no? L'ho vista anche sul Sole 24 Ore questa. Sì, certo. Vabbè, ieri è stato annunciato un nuovo palinsesto, io mi sposterò alle 9, farò un programma con Veronica Gentili e Leonardo Manera, e dal titolo Funamboli. Tra l'altro nel nuovo palinsesto ci sarà anche Mauro Meazza, signori. È incredibile, ti ho già detto in qualche occasione che questa è la radio più incosciente del mondo. Infatti, cioè, e vuol quindi dire proprio che vuole dimostrare di esserlo una volta di più. E cosa farai? Diccelo però. Guarda, assisterò, affiancherò Deborah Rosciani, sarò messo sotto tutela da Deborah Rosciani alle 11. Per parlare dalle 11 alle 12 con due di denari di risparmio, investimenti, ma anche fisco, quindi, tasse. Subito dopo di noi dalle 9 alle 11 ti cederemo il testimone, qualche volta non vi daremo il microfono, andremo avanti fino alle 11:15, 11:20, quanto ci garba, insomma. Va bene, contiamo naturalmente sulla vostra comprensione. Va bene, dai, questa è la rassegna stampa in realtà. L'ultima rassegna stampa, anche perché poi ci sono le ferie. Vogliamo capire, Peter Bescapè, se c'è la sigletta per iniziare a capire che cosa c'è sui giornali? È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Dai, siamo a venerdì 28 luglio, vediamo un po' i titoli. Devo dire, Mauro, che Italia-Francia, e non è una partita di calcio, è il titolo che in qualche modo c'è ovunque, no? Sì. Il Sole 24 Ore, Macron, i cantieri Estex, lo Stato. Per il Corriere della Sera, Parigi vuole i cantieri di Stato. Il Messaggero, Italia-Francia, rotta di collisione. Per la verità, addirittura Macron dichiara guerra all'Italia. La Stampa, navi e Libia, Macron sfida l'Italia. E ancora, Avvenire, nazionalisti a tempo, ce l'hanno ovviamente con i francesi. Il Fatto Quotidiano, l'amico Macron ci fa la guerra. E il Secolo XIX, Fincantieri, lo scippo francese. E infine il manifesto, il capo cantiere, e c'è Macron con l'elmetto proprio in un cantiere. Dici che cosa sta succedendo, Mauro, poi leggiamo qualcosa. Diciamo che magari evitiamo le metafore belliche, prendiamo quelle calcistiche, ci hanno preso in contropiede, perché di fronte appunto alla possibilità che la Setex passasse in mani italiane, in proprietà italiana, invece hanno deciso di nazionalizzare, hanno varato questo piano di nazionalizzazione dei cantieri. E poi c'è stato anche, diciamo, ci sono anche le frizioni sulla questione dei migranti, perché con l'idea buttata lì dal neo presidente francese, facciamo degli hotspot, sì, però direttamente noi in Libia. Sì, bisogna dire che qui poi è tornato un po' sui propri passi Macron, in qualche modo ha detto poi l'Eliseo è rientrato da questa proposta. Però certamente, giusto per continuare la metafora calcistica, il Fatto Quotidiano più che a un amichevole la paragona alla famosa testata di Zidane a Materazzi, cioè Macron ci prende a testate come Zidane prese a testate Materazzi a finale di Coppa del Mondo. Comunque invitiamo tutti a leggere l'articolo di Celestina Dominelli a pagina 3 del Sole 24 Ore, che racconta proprio la Francia sceglie la nazionalizzazione temporanea per i cantieri di Saint-Nazaire, ma non chiude la porta all'Italia a Fincantieri, che aveva già raggiunto un accordo sotto la presidenza Hollande per rilevare il 66,7% di Estex France. Oh, intanto questa cosa, temporanea che vuol dire? Ma devo dire che queste cose di temporaneità sembrano più prendere tempo. Tieni conto che se vai poi a pagina 5 del Sole 24 Ore c'è anche tutta la vicenda Vivendi Mediaset, di cui aspettiamo, appunto, come riferisce Antonella Olivieri, a giorni la decisione della G-Com. Telecom abbiamo visto adesso con l'avvicendamento, per dir così, di Cattaneo, quindi ci sono diverse partite aperte e questa dei cantieri è una delle tante. Appunto, tra la pagina 1 del Sole 24 Ore e la pagina 5 è tutto un parlare di queste vicende italo-francesi o franco-italiane, come preferisci, ed è sono tutte abbastanza in fieri, in evoluzione. Tra l'altro, nei retroscena, Marco Conti scrive a pagina 3 del Messaggero: ieri c'è stata la telefonata. Macron ha chiamato il nostro premier Gentiloni proprio per sostenere la tesi del «mi sono frainteso» e che in Libia la Francia lavorerà senza fughe in avanti in stretto raccordo con l'Italia. Dunque, coordiniamoci, vediamoci, magari il 28 agosto, ha sostenuto Macron, che ha anche affrontato la vicenda Fincantieri Estex, rimandando la questione all'incontro che si terrà a Roma. Poco prima anche il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire aveva detto: andrò martedì prossimo a Roma per discutere con i ministri Padoan e Calenda. Insomma, è una questione molto molto aperta. Ovviamente nella rivalità, come solito, Italia-Francia, oggi Giuliana Ferraino sul Corriere della Sera racconta che, in una pagina molto interessante di riepilogo, dal 96 a oggi ci sono state operazioni francesi per 101,5 miliardi nei confronti dei nostri gruppi industriali, dal lusso a TIM, Parmalat, quando sono i francesi a comprare i gioielli italiani. Anche allora, la finanza verrebbe da ricordare. Perché... quindi voglio dire che, per carità, non bisogna metterla in termini di guerra, di guerre commerciali o guerre economiche, guerre finanziarie, però... No, ma diciamo che essendo tra l'altro tutti e due nell'Unione Europea, che ci siano delle proprietà, delle aziende che passano di mano da una proprietà a un'altra, è una cosa assolutamente normale, anzi potrebbe anche essere visto come un segnale positivo. Quello che fa specie è che sembra mancare una certa reciprocità. Cioè, perché allora non deve essere un'azienda italiana che prende il controllo di un'azienda francese? Certo, ma forse perché Macron dice: io faccio gli interessi del mio paese, della mia nazione. Sì, ma anche sulla questione dei migranti, scusami, è vero che c'è stata una correzione di rotta, però anche lì noi auspicavamo un coinvolgimento dell'Unione Europea, non un accordo italo-francese. Chiaro. Per gestire questa vicenda che è epocale. Quindi anche lì la Francia si muove un po' per conto suo, verrebbe da dire. Ma noi abbiamo il nostro eroe. L'eroe tricolore che la fa vedere ai francesi e insegna come Materazzi. Si sta al mondo. È no, Materazzi. Marco no, Materazzi. No, non è Marco Materazzi. Il suo nome è Maurizio Landi, magari è sconosciuto a voi. Ma oggi il giornale racconta, pagina 2, la sua storia. Maurizio Landi è uno chef italiano che è stato messo alla porta dal titolare di un ristorante francese perché lui si è rifiutato di cucinare la pasta scotta, dicendo: la pasta italiana va mangiata al dente. Ed eccolo qui, a Lione difende la pasta al dente, viene licenziato. La sua colpa è voler insegnare invano come si mangiano i veri spaghetti. Tanto che questo te lo devo leggere, caro Mauro, e a nostri ascoltatori. Massimo Gramellini lo celebra nel caffè in prima pagina del Corriere della Sera. Il mio eroe nazionale ha un cappello da cuoco come elmo e un grembiule di cucina per corazza. Si chiama Maurizio Landi, licenziato da un ristorante francese perché si rifiutava di servire la pasta scotta. Quegli originaloni hanno il vezzo di tagliare la pasta asciutta col coltello e perciò pretendono di trattarla come fosse la nostra classe dirigente, moscia e senza carattere. Si ostinano a stravolgerci l'identità. Pensate che ordinavano gli spaghetti al ragù, ma il Landi fieramente si opponeva, trasformando i fornelli in barricate. Con ragù ci vogliono le tagliatelle, mica gli spaghetti. Allora gli infingardi aspettavano il suo giorno di riposo per estrarre proditoriamente dal frigo il ragù e spalmarlo sui loro insulsi vermicelli di colla. Son fatti così, vogliono francesizzare tutto, mica solo lo spaghetto. Prendete il Macron. Si è insediato con l'inno alla gioia, ma c'è bastato poco per capire che la gioia era solo la sua. Al confronto Renzi ha l'ego di un moscerino, Sarkozy quello di una carmelitana scalza. coi migranti bisogna fare a modo suo, e così nei cantieri che maccaronizza a giorni alterni come le targhe, e noi buoni, pazienti e gentili, a volte perfino troppo gentiloni. Sguainando il suo mestolo, il Prode Landi indica la rotta: rivendicare la qualità delle ricette italiane senza permettergli di francesizzare dopo il ragù anche le coste libiche e le nostre ultime aziende al dente. Ma mi viene solo da dire bravo, male. Bravo. Non è male, il Gramellini di oggi. Vabbè, però questa vicenda in realtà, come dire, è una vicenda molto complessa, molto complicata. È che questa partita commerciale come finirà? Cioè, perché la questione San Nazaire è molto complessa. Cioè, c'è da parte d'Italia anche la forza o la capacità di dire allora recediamo da tutto, oppure impugnare a livello internazionale anche i contratti già siglati con Hollande? No, non vorrei essere pessimista, ma credo che anche con, come è già successo per altre vicende, ricordo una questione di bigliettamento sulle autostrade, in cui anche lì ci fu una contestazione, nonostante ci fosse già un accordo siglato, ci fu una contestazione e poi la società italiana fece marcia indietro di fatto. Era l'applicazione del sistema Telepass, per capirci, e anche lì appunto una contesa, tutto sembrava già definito e poi si è fatta marcia indietro. Davvero, un po' uscendo dall'ironia di Gramellini, sembra che effettivamente il sistema politico francese abbia una forza di sostegno delle imprese, ohimè, maggiore di quella che possiamo vantare noi, di quella che possiamo mostrare noi. Va bene, caro Mauro, cambiamo un attimo argomento. C'è qualcuno che dice: non dovevate dirmi che non ci sarà più Alessandro Mina a leggere la segna stampa. Magari non lo dovevo dire, però succederà lo stesso. Beh, è scritto sui giornali comunque, ne parla anche il Sole 24 esatto. Ore. Lo dice il Sole 24 Ore. Quindi. Comunque, c'è un'altra vicenda che riguarda Roma. Non è l'acqua e la siccità, questa la vedremo magari più avanti nella segna stampa se c'è spazio, ma riguarda un'altra azienda disastrata, l'ATAC. Così almeno ha detto il direttore generale dell'ATAC ieri in un paio di interviste al Corriere della Sera, al Fatto Quotidiano. Il risultato è questo, caro Mauro. Raggi, l'ennesimo addio, oggi licenzierà il direttore generale di ATAC. Questo almeno è il titolo del Fatto Quotidiano. Luca De Carolis dice... e scrive: è il milionesimo problema per la Giunta Raggi e il Movimento 5 Stelle, che ora si ritrova con un consigliere comunale accusato di presunte raccomandazioni, perché questo ha detto il direttore generale Rota, dicendo che un consigliere del Movimento 5 Stelle chiedeva di aiutare qualcuno, e il risultato pare questo, licenziamento. Insomma, non c'è pace per la Giunta Raggi a Roma, che certo ha ereditato una situazione complicata, ma ogni giorno ha un po' la sua gatta da pelare. E peraltro sui giornali oggi si legge anche qualche ulteriore numero sull'andamento di ATAC, sull'assenteismo. Sì. Insomma, è indubbio che l'azienda abbia più di un problema, e fa specie che il tutto venga trasformato in una sorta di polemica politica tra colui che è stato chiamato per rimetterla in sesto, per rimetterla nell'assetto normale, e invece la giunta di Roma, dove poi non si è capito bene ancora, o almeno forse io non ho letto così tanti giornali come hai fatto tu stamattina, non si è capito bene la sindaca che posizione stia prendendo. Ma, su Rota. Su questo pare appunto decisa a rimuovere il manager, che ha raccontato come ATAC sia sull'orlo del fallimento l'enorme indebitamento soprattutto. Ti riferivi a questo articolo, forse del Corriere della Sera, di Andrea Arzilli, a pagina 7, una pagina per raccontare così l'autista sparisce tra malattie e barbiere. Ma non è solo una questione di assenza, pensa che ci sono proprio delle gestioni evidentemente un po' complicato, tipo ci sono autisti che iniziano il turno a 34 km da dove devono timbrare, per cui timbrano, il badge viene strisciato nella rimessa ATAC di Torpagnotta, Roma Sud, ma il turno inizia a Montesacro, quadrante nord, 34 km da fare dopo la strisciata del badge per prendere servizio, e a volte un'ora su sei è persa nei trasferimenti. Questo insomma è anche sintomo, sì, e poi dovresti aggiungere, noi l'abbiamo scritto anche più volte, Giorgio Santilli si è occupato più volte sul Sole 24 Ore, lo stato preoccupante dei mezzi, l'affidabilità dei mezzi, perché sì, c'è una quantità di guasti, di incendi, malfunzionamenti. che è decisamente superiore alla media, ma ovviamente essendoci in una situazione finanziaria critica non si può fare una manutenzione, un rinnovo del parco circolante. Sull'assenteismo, i tecnici a supporto del servizio hanno un assenteismo del 17,8%, poi gli ausiliari della mobilità 16,4%, i macchinisti 12,4%, questo quotidiano, gli autisti 11,9%, medie tra l'altro tutte in aumento. Certo, poi si dice qua abbiamo battagliato a volte, ma nessuno ce l'ha con i dipendenti pubblici, soprattutto quelli che fanno il proprio lavoro in maniera onesta e sono la stragrande maggioranza. Però Mauro, questi sono numeri che nel privato non si vedono assolutamente. Sì, e tra l'altro Rota in queste interviste che ha rilasciato, che erano ieri sui giornali, diceva sono anche costretto a parlare con delle sigle sindacali che sono rappresentative veramente di un'esiguità lavoratori. Di lavoratori o 300, sì. Allora, che dire, c'è sempre la questione vitalizi, ora c'è la rivolta delle regioni, racconta Repubblica, con Emanuele Lauria, pagina 8, perché le regioni dicono dopo i tagli passati alla Camera, e chissà se passeranno al Senato, i tagli valgono anche per i 3.500 consiglieri, ma le regioni dicono noi abbiamo già dato. Tra l'altro, sai chi difende tutti i ricorsi dei... consiglieri regionali che fanno il difende? Il mitico juventinissimo avvocato Paniz, te lo ricordi, l'onorevole Paniz? Caspita, avvocato. Chi si risente? Chi si risente? Bene, sì, è lui che fa l'avvocato, diciamo, di professione, e da quando non è più in Parlamento è tornato, per la verità non aveva mai abbandonato questo lavoro, e difende ora tutti i... Non è questa la notizia che ti fa più inzare della giornata? No, quella che mi fa più della giornata, siamo sul giornale, è l'altra casta intoccabile, sai qual è? Quella dei burocrati del Parlamento, spesso ci sono articoli su questo, sono stati tagliati i vitalizi, ma non le pensioni d'oro dei dipendenti di Camera e Senato, la famosa storia del barbiere che forse non c'è più, non lo so. Comunque, i privilegi riepilogati dal giornale, dagli scatti alla malattia, per ogni euro versato ne ricevono oltre 4. Oltre 4. Eh? Sono cose che succedono. Sono cose che succedono, mi sa di sì. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Bonovox dell'informazione. No, aspetta. Forse solo il Vox dell'informazione. Sì, sì, dai, sì. Dai, solo il Vox. Vox. Dai, vabbè, vabbè, dai. Vai. Ma che devo svelare questa cosa, Mauro Meazza non lo sa, ma il mio sogno quando ero un po' più piccolino era diventare Bono, ma non con la Bono B minuscola, proprio Bono. Ah, Bono, Bono, Bono come Bono degli U2, degli sì, U2. Sì. Io volevo fare quello. Cosa vorrei fare da grande? Bono. Mi è andata male in questa vita, però chi lo sa, non sono riuscito. Sei ancora giovane, potresti avviare adesso una carriera appunto di pop star, di rock star. Perché potrebbe essere. Vuoi provare con i Chapter 11? So che non abbiamo forse lo stesso seguito ma degli no. U2, ma insomma, nel nostro piccolo. Ma perché ti dovrei rubare, come dire, il ruolo di cantante e frontman dei Chapter 11? Ma no, quando c'è uno più bravo è un piacere. No. Come avete capito, siamo nella rassegna stampa di 24 Mattino. Forse non era così chiaro. Questa è la rassegna stampa di 24 Mattino. Allora, c'è Mauro Meazza. Siamo anche in diretta sul canale Facebook di Radio 24 e anche sul sito radio24.it. Salutiamo per tutti quelli che ci guardano anche su Facebook. Io sono Alessandro Milan e quello lì è Mauro Meazza. Sto indicando alla radio, si vede molto bene. Allora, tornando a bomba sulle notizie, caro Mauro, tiene ancora banco e qui c'è sempre la questione anche francese, come dicevamo, dell'immigrazione e del tema italiano del andare a portare delle navi in Libia, a largo delle acque territoriali della Libia, per fermare l'arrivo dei migranti. Come racconta Repubblica, pagina 2-3, oggi c'è il dossier in Consiglio dei Ministri, martedì il voto in Parlamento. Oh, chiariamo, intanto non si tratta di un blocco navale, è una, però una formula che dobbiamo un po' studiare, adesso noi la approfondiremo anche alle 8 con esperti, perché bisogna capire che vuol dire tecnicamente, se una barca arriva, la si blocca oppure no. Ma mi sembra che la questione sia un po' tutta da decifrare. Oggi, tra l'altro, la nostra Marina Militare va in missione, cioè riceve il via libera per la missione in Libia, e quindi l'operatività sarà imminente, lo segnala Marco Ludovico oggi sul Sole 24 Ore. Già da agosto, quindi da settimana prossima, le nostre navi saranno lì. Però non riesco a immaginarmi come si potrà evitare di impedire, di aiutare della gente che sta in condizioni appunto pericolosissime per la propria incolumità. Esatto. E quindi poi di farsene carico. Ah, infatti, tra l'altro, oggi Minniti, il ministro dell'Interno, incontrerà le ONG, perché anche le ONG che con le loro navi sono presenti nel Mediterraneo. Bisogna capire ora che ruolo potranno avere. Oggi per esempio su Repubblica Giampaolo Cadalanu racconta che le regole di ingaggio saranno queste: solo supporto logistico, se però gli scafisti attaccano c'è il via libera al potenziale uso della forza da parte nostra. Ma non credo che gli scafisti si mettano a ingaggiare una guerra con armi nei confronti. Adesso mi sembra che andiamo un po' nella pirateria alla Salgari. Esatto. E invece ti segnalo, oggi c'è anche una cosa importante per appunto l'incontro con i paesi dell'est, sai, quelli più recalcitranti, la come Polonia, no, come no, la Slovacchia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, per il ricollocamento, perché poi il problema effettivamente è che noi siamo il punto d'arrivo, ma l'idea era che un po' l'Europa tutta diventasse una possibilità di ricollocamento di queste persone, cosa che, come abbiamo visto, come abbiamo letto più riprese sui giornali, non è avvenuta o è avvenuta in percentuali irrisorie. Tu stesso l'hai detto diverse volte qui al mattino, appunto ricordavi quanti sono stati accolti ad esempio a Malta, che è proprio lontanissima dalle coste libiche. Non è zero. Tra l'altro oggi sull'immigrazione c'è una storia cruda sulla Stampa, pagina 5. Federico Genta, inviato a Bardonecchia, racconta: schierato l'esercito al tunnel del Fréjus per impedire il passaggio dei profughi. Ebbene sì, perché passano anche nel tunnel rischiando la vita. E racconta Genta: la traversata dura poco più di 3 ore, buio pesto, ma basta conoscere gli impianti elettrici usati dagli addetti alle manutenzioni e, arrivati alla prima nicchia, si accendono le luci, si cammina uno dietro l'altro su una fila di piastrelle di cemento larghe non più di 2 spanne, 13 chilometri di marcia ed ecco la Francia. Ma le luci di Modane restano un miraggio che dura pochi secondi, perché chi arriva fino in fondo trova ad aspettarlo la polizia di frontiera, che carica tutti sul pulmino e riporta al punto di partenza Italia, Bardonecchia. E poi continua questo reportage, insomma questa è l'ennesima dimostrazione che poi il confine è proprio chiuso, è quello che Macron ha sempre detto: non vogliamo i migranti economici che tentano in tutti i modi di andare in quella che è l'Europa per loro e vengono rispedite al mittente. Ma infatti in questa iniziativa degli hotspot di cui parlavamo già prima, avviata un po', lanciata così dalla Francia, c'era quasi, si sospettava un'idea di selezioniamo noi quasi all'origine, verrebbe da dire, mi scuso se parlo così di esseri umani, ma selezioniamo noi all'origine chi potrebbe magari venire e chi invece non facciamo venire nel nostro paese. Sai che sull'immigrazione c'è anche una storia, devo dire, triste e anche preoccupante, che riguarda un capotreno delle Ferrovie Trenord. Si chiama Davide Feltri, che aveva denunciato qualche giorno fa l'aggressione con tanto di coltellata da parte di un extracomunitario, e per questo c'era stato anche uno sciopero di solidarietà dei colleghi. È un problema che c'è, quello della sicurezza sui treni, soprattutto i treni locali. Il problema è emerso dopo serrati interrogatori. Questo capotreno si era inventato tutto. Il controllore ferito che accusò l'immigrato: ho fatto tutto da solo. Crolla dopo aver detto di essere stato aggredito sul Piacenza-Milano del 701 del 19 luglio da un giovane nero, da un immigrato che poi era fuggito. In realtà si è accoltellato lui ed è crollato, ha confessato tra le lacrime, dopo che per 4 volte invece aveva confermato ogni dettaglio del racconto. Un giovane passeggero africano, alto, magro, jeans e maglietta rossa, che lo aveva colpito con una coltellata quando lo aveva incrociato nel corridoio del treno semideserto. Non sono sicuro di aver compreso bene questa notizia che ho letto, ma mi pare di aver capito che questo passeggero che lui descriveva e calunniava corrispondesse però alla descrizione di una, effettivamente, di una persona. Un senzatetto di 25 anni del Ghana. E quindi c'era quasi, diciamo al netto delle questioni patologiche, c'era quasi una sorta di paura sotterranea che probabilmente ha portato anche a questo gesto di autolesionismo. Certo. E qui allora sarebbe da fare una riflessione: a furia di come dire, demonizzare, poi finiamo per avere anche dei comportamenti incomprensibili, come appunto quello di questo capotreno. Ma tra poco, adesso ci dirai qualcosa di più sul Sole 24 Ore. Io do solo questa notizia di politica. La politica è un po' in fase estiva, stanca, si discute ancora dell'abbraccio tra Boschi e la Pisapia. E sì, Boschi e la Pisapia. Boschi e ha creato un mostro, un ircocervo tra Pisapia e la Boschi. Ma forse quindi il dibattito è veramente di livello appassionante, basso, è molto appassionante. Forse la cosa che più appassiona sono i debitori del Partito Democratico. Il tesoriere Bonifazi ha reso noto che ci sono persone del partito che non hanno versato le quote, tra queste Ernesto Carbone, ma anche Ichino, il giuslavorista, che però dice: io avevo un accordo, dovevo rientrare dei soldi spesi in campagna elettorale. L'ex ministro Giannini, ministro dell'istruzione, che dice: io sono stata eletta con scelta civica e poi sono passata al PD, quindi non devo nulla al Partito Democratico. Comunque la lite sui deputati morosi. Ma allora che hanno trasferito tutto a Agenzia Italia Riscossione, no, a questo punto, cioè il nuovo soggetto. Dovrebbero dare 1500 euro al partito, ma non li danno. Però a proposito di una colletta? A proposito di morosi, Mauro Meazza. Oh, eccoci qua, come naturalmente non poteva mancare l'insulto, ti farò scrivere dal mio avvocato anche se cambi fascia. Ovvio. Allora ti segnalo rapidamente, innanzitutto continua il nostro dibattito sull'università, articolo da meditazione, oggi Gianni Trovati ti dice che tra 3 anni andrà in pensione un professore ordinario su 5 e quindi sarà costretti a un ricambio, ma è proprio il punto dolente che abbiamo sollevato con questo dibattito, cioè com'è la procedura di selezione e di reclutamento dei professori universitari. Ne stiamo parlando in questi giorni. Poi ti segnalo, anche se, come dire, non so quanto poi comprenderai la portata, questa sentenza della Cassazione Sezioni Unite sulle donazioni. È importante, la donazione con bonifico ma fatta senza notaio è nulla. Altro non ti vuol dire, caro Alino, però leggi da norme e tributi, leggi, mi raccomando, da norme e tributi. E poi, sempre pescando, ma così fior da fiore davvero, partono le assunzioni di ruolo per 51.773 docenti, ce lo dice Eugenio Bruno. La ministra ha firmato il decreto nomine e quindi le nomine avverranno entro il 14 di agosto. Ti ricordi che l'avevamo detto? Allora, lunedì 14 agosto io sarò qui, tu sarai invece in ferie, debosciato, sei un debosciato, però grazie, mentre tu sarai in ferie, caro il mio debosciato, ci sarà la nomina, il decreto di nomina per 51.000 docenti, oggi con molto altro sul Sole 24 Ore. Allora, però Mauro, perché Mauro ci ha fatto anche un regalo, intanto tutte le volte che è qui in diretta, cioè quelle da debosciato una volta ogni 6 mesi, tipo, ci sono persone che dicono: ma una voce diversa, questo è normale, ma confermo, è Mauro Meazza. Puoi sorridere anche alla diretta Facebook, devo mostrare la carta d'identità, va bene, esatto. Allora noi dobbiamo andare al traffico, lo dico io così banalmente, traffico, perché poi rientreremo, sì lo dico io oggi, traffico, così, perché poi rientreremo anche con degli speciali in decasillabi, è traffico. Con Alino in tangenziale andiamo a comandare. Alessandro Milan, il Rovazzi dell'informazione. Andiamo a comando. Beh, direi che questa è la musica più acconcia, come dice Mauro Meazza, per gli endecasillabi speciali. Vabbè, andiamo con questi endecasillabi. Mi aspettavo qualcosa di più classico, se posso dire. Più classico di questo, vai. Vado a declamare allora, andiamo a declamare. Al fine si è svelato il gran mistero che Italia tutta quanta attanagliava. A chi l'Alino Milan mattiniero regalerà la sveglia? Quella brava che in 5 lunghi anni senza sosta ha garantito a tutti la diretta, dal Parlamento fino alla carta costa, notizia commentata oltre che letta. Settembre quindi, in novità foriero, giacché l'Alino muove in palinsesto, con il Manera e la Gentilivero, funamboli saranno. Non così presto. che parte dalle 9 lo sciocchino, fin quasi all'ora che è dell'antipast. E se radio non senti di mattino, ricordati che c'è sempre il podcast. Ma che siano le 9 o d'altra ora, un motto devi sempre avere a mente: che leggere dovrai per sempre e ancora norme e tributi religiosamente. Vabbè, ma signori, vabbè, ma allora c'è un ascoltatore che mi scrive: l'addio di Milan è peggio delle corna della mia ragazza. Io ormai ho accertato che il livello di pazzia è diffuso in Italia, è molto, come dire, generalizzato. State calmi, state secondo tranquilli. Me, secondo me, secondo solo nulla. L'addio di Francesco Totti. Non guarda. Succede nulla, non succede nulla. Magari starete anche molto meglio. Allora, comunque, non do nessun addio, appunto, come ha detto il Vate qui a fianco. Andrò in onda dalle 9 alle 11 con un nuovo programma. Grazie per il Vate. Grazie. Comunque, l'avvocato mio ti scrive lo stesso. Vate. Ma non dovevamo leggere delle notizie dei giornali? Sì, sì, sì. Allora, ci sono alcune notizie di cronaca importanti. Intanto, la questione la questione idrica, l'acqua. A Roma siamo davvero ormai al lumicino, nel senso che sta scadendo l'ultimatum, mettiamola così, e poi quest'oggi a mezzanotte ci sarà il razionamento dell'acqua, razionamento più vicino. Non si trova una soluzione, con anche ora, racconta Repubblica, i turisti che inviperiti e preoccupati chiamano non so, gli alberghi dove hanno prenotato, a dire: ma avete l'acqua? Perché stiamo venendo a Roma, la capitale mondiale, non solo italiana, della cultura, della storia, dell'archeologia, e senza acqua. Devo dire, è una pessima pubblicità, non fosse sì. Tutto quello che c'è dietro, quindi la mala gestione, i nostri impianti idrici che perdono un terzo, quando non di più, dell'acqua trasportata e così via, ma poi c'è anche questo danno, diciamolo un po', d'immagine per la città più in vista, più famosa al mondo probabilmente. Effettivamente sì. Oh, c'è, caro Mauro, una notizia che ho trovato di cronaca, che ho trovato sul Giorno, che mi sembra molto interessante. Ve ne abbiamo parlato qualche volta in questa trasmissione. È arrivata una nuova legge contro il cyberbullismo. Tra l'altro una legge che è partita da una storia drammatica, quella di Carolina Picchio, che si suicidò a 14 anni dopo essere stata bullizzata per un video che veniva fatto circolare tra amici, e il padre Paolo Picchio, che è stato spesso nostro ospite, si è impegnato pubblicamente per fare questa legge. Ora, per la prima volta questa legge è stata applicata, nel senso che un quindicenne di Imperia è stato convocato dalla questura insieme ai genitori e ufficialmente ammonito, come prevede la recente legge contro il cyberbullismo, perché stava per mettere la foto osè della sua ex fidanzatina sui social, cioè tra gli amici, per farla diffondere. E lui, di fronte alla reprimenda del questore, come dire, ha cancellato tutto e è tornato sui suoi passi. Eccolo qua: pubblico la tua foto osè, ma il questore arriva prima, il cyberbullo cancella tutto. Tra l'altro ti voglio dire, questo sarà uno dei tanti temi che affronteremo da lunedì in questa iniziativa nostra del Sole, che si chiama L'Agenda del Professionista. Approfondiamo un po' di novità normative e fiscali. Ma quello che ti voglio dire della DDL, della legge sul cyberbullismo, è che prevede anche un coinvolgimento importante delle scuole, e quindi a settembre non ci sarà solo la novità del palinsesto di Radio 24, le scuole dovranno attivarsi e avere dei presidi contro il cyberbullismo. È importante che questo venga previsto per tempo, naturalmente. Ma questo sì, tra l'altro è veramente una notizia, almeno una di quelle occasioni in cui si può dire c'è una legge che in questo caso a livello concreto ha funzionato. In questo caso ha funzionato, infatti c'è l'intervista anche a Paolo Picchio, il papà di Carolina, che dice: ora, grazie a questa legge, vedete, possiamo salvare situazioni. Non tutte finiscono fortunatamente in tragedia come quella della figlia di Paolo Picchio, però possiamo prevenire situazioni di rischio simili. Io voglio solo, siamo quasi in conclusione, fare un elogio pubblico, lo fanno tutti i giornali, alla divina, la divina Federica Pellegrini, che tra l'altro scopro sul Giornale è stata anche un po' insultata su Facebook. E perché? Ma non so, da altre donne, a dire: ah, non conosci il senso del vero sacrificio, essere mamma, lavorare, cioè, ma cosa c'entra? Ma è una campionessa straordinaria. Ma mi sembra che lei nuoti di lavoro, ma no? Esatto, cioè nuota di lavoro e lo fa con risultati importanti, straordinari, mi pare di capire. Non lo so, per cui c'è questa invidia sociale ovunque, in qualsiasi campo, invece tutti i giornali giustamente celebrano la divina, no? Noi parleremo anche più avanti, il nuoto come ma anche metafora della fatica vera e propria. Tu immagini ore e ore allenarsi. Sì, e tra l'altro è uno sport che, come sappiamo, prevede allenamenti massacranti, quindi adesso l'accusa di non comprendere il sacrificio forse esatto. È indirizzata alla sportiva sbagliata. Esatto, mica che ne so, un interista qualsiasi che guadagna 3-4 milioni di euro e manco gioca in Europa League, cioè gente veramente fantastica. Che però tuttavia sconfigge il Bayern, caro mio, esatto. Mica pizza e fichi. Noi 4-0 al mica Bayern, il Craio, che come si chiamava? Si lascia fare. Ma cos'è, uno shampoo? Signori, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, l'ultimo a mio insindacabile giudizio della storia di rassegna stampa mia a Radio 24. C'è Angelina Jolie, come racconta il giornale, le confessioni a Vanity Fair del mio amico Luca Dini. Faccio la casalinga e piango sotto la doccia. Ma chi se ne frega?